Come racconta Edmond de Goncourt nelle sue Notules, la persona più maltrattata nella raccolta di disegni di Gabriel de Saint-Aubin, esposta in mostra nel 1755, la persona più maltrattata è stata senz'altro Jeanne-Antoinette Poisson, marchesa di Pompadour, all'epoca già nominata duchessa per i meriti acquisiti nella sua funzione di sovrintendente ai divertimenti della corte di Luigi XV. La si poteva vedere in questi disegni in tre pose particolarmente significative. In uno la si ritraeva completamente nuda, mentre presagendo forse un consiglio dato urbi e torbi da Elio e le Storie Tese molti anni più tardi, nell'85, se non vado errato, mentre si faceva un bidet. Di questo strumento, quanto sembra, esiste una documentazione databile al 1710, grazie alla ferrea memoria di René-Louis de Voyer de Paulmy, marchese di Argenson, che mai ebbe a dimenticare la volta in cui un'altra Jeanne, la Jeanne Agnès Berthelot de Plemont, marchesa di Pry, gli accordò udienza, restando tuttavia ben assisa sul proprio bidet. La Pompadour che mai e poi mai della marchesa di Pry avrebbe voluto essere da meno, di bidet a quanto sembra ne possedeva due. Uno in legno di rosa, con intarsi floreali, i piedini e gli accessori in bronzo dorato e la vaschetta di stagno. L'altro in legno di noce, con coperchio e schienale di marocchino rosso con borchie dorate, due bottiglie di cristallo nascoste nella parte posteriore e vaschetta in porcellana. Passano gli anni e continua a non possedere un telefono cellulare. È uno dei tanti lussi ideologici che mi concedo. Ho assistito a sgomento al manifestarsi dei primi focolai e, come altri, immagino, mi sono trovato impotente nei confronti della loro diffusione epidemica. Il telefono cellulare viene oggi usato e straabusato in tali e tante circostanze da indurre alle più funeste predizioni circa i destini della specie umana. Quell'uomo che sempre piuttosto incautamente si autodefiniva sapiens, che correndo a perdifiato la maratona senza scampo del mercato aveva impestato il pianeta dei risultati del proprio ingegno, quell'uomo ora digita minuscoli tasti senza requie, interroga lo specchio del reame molto più spesso della strega di Biancaneve, parla, straparla e più parla meno si capisce, fotografa e filma chi che sia e che sia e invia, si intossica di dati e di abbreviazioni, sublima tutte le relazioni che va fisicamente e mentalmente perdendo nell'eterna posposizione di un contatto sempre più virtuale, perché con un colpo di telefonino, per l'appunto, correggendo le rotte di collisione, si può raggiungere chiunque in qualsiasi momento del suo angosciato palinsesto quotidiano. Non voglio indulgere allo sterminato quaderno delle doglianze di cui tutti peraltro potremmo lamentarci, detto che è molto più spesso usato per fini più e meno ignobili piuttosto che per fini nobili è detto tutto, anche perché sono prontissimo ad evidenziarne la straordinaria utilità in determinate circostanze. Sono pronto anche ad ammettere che negli ultimi 15 anni mi è anche capitata, sì, di ammettere tra me e me, che sarebbe stata ottima cosa se in quel preciso momento ne avessi avuto uno. Avrei evitato inutili preoccupazioni ai miei cari e da ciò avrei tratto, diciamo, il sufficiente conforto per affrontare una situazione seccante. Due volte, non di più, due volte negli ultimi 15 anni mi è capitato, sì, so dunque che il telefono cellulare può tornare molto utile. E gli occhi della bionda che l'altro giorno sedeva di fronte a me in treno tradivano un certo nervosismo. Eravamo ancora in stazione. In attesa che il treno si decidesse a partire, controllava spesso l'orologio. Aveva provato a tirar fuori un libro dalla borsa, ma evidentemente nulla in quelle pagine aveva il potere di deviarne i pensieri. Allorché il treno finalmente si mosse lasciando alle nostre spalle i marciapiedi della stazione centrale di Milano, la signora, fattasi più decisa, estrasse dalla borsa il telefono cellulare e schiacciò il tasto giusto. Dall'altra parte, presumibilmente qualcuno le rispose, qualcuno che come interlocutore le andava bene, perché a differenza di quelle tante telefonate che restano sul vago e che in pratica significano soltanto la noia e la solitudine di chi telefona, a differenza di quelle, questa fu una telefonata di esemplare informatività. Volevo dirti, disse la signora, volevo dirti che prima di uscire ho cambiato gli asciugamani in bagno, anche quello del bidet. E poi, non senza un eufemistico gioco di metafore, ha voluto chiarire: sì, è quello grande per le mani e quello piccolo per il bidet, e li ho cambiati tutti e due. Il termine bidet deriva da un nome cinquecentesco. In francese bidet e in italiano bidetto veniva chiamato un cavallo rimasto piccolo, o anche il puledrino. Sul processo metaforico, in grazia del quale è finito con il designare una parte considerevole di quel collettivo di grande investimento ideologico che è costituito dagli attuali sanitari, non dovrebbero nascere soverchi dubbi. Categorizzata la postura implicita nell'uso dello strumento come un cavalcare, ecco che rispetto alla tazza cavallo il bidet diventa il cavallino, che nella sua diminutività non può che trascinarsi appresso peraltro un asciugamani che non è un asciugamani ma che è più piccolo dell'asciugamani. Un saluto e via, è tutto qui. Non è una di quelle che abusano del telefonino. La signora si è sentita in dovere di informare qualcuno a casa, presumibilmente, non so, un figlio o una figlia, che lei prima di uscire ha cambiato gli asciugamani. Al linguaggio assegniamo molteplici funzioni, fra cui quella di informare è probabilmente quella meno usata. Per lo più, usando del linguaggio, diamo o cerchiamo conferme. Conferma di un'attenzione rivolta all'interlocutore o del legame sociale o intimo che con l'interlocutore condividiamo. Più che una comunicazione in un codice oscuro destinata a turbare i sonni di quei servizi segreti che indefessamente controllano il dire e l'agire della comunità, la comunicazione della signora mi è sembrata rispondere alla mera esigenza di costituire e ricostituire un esserci e di testimoniare un darsi da fare all'altro e per l'altro. I servizi segreti si tranquillizzino, perché si può sperare che non sia ancora a far loro, la spia di un affanno, di un malessere di vivere che soltanto la messa in scena della solerzia può sedare. Novità per novità, messa in scena di solerzia o di indaffarataggine, così come ieri la Pompadour o la Pri concedevano udienza sedute sul bidet, oggi in fin dei conti si riceve restando al telefonino, facendo cenno con la mano di entrare pure, girandosi appena di lato per virtuosa pudicizia.